va sopra di noi, che siamo gli ultimi eroi di questa città. Adesso io e te guardiamo il prato e le stelle che vivono nei nostri pensieri, in un mondo di desideri. E intanto mi parli di sogni, di storie d'amore, ma i sogni è ferito oramai. È vero, la vita è come un film, si può guardare o partecipare, ma se devo proprio dirla tutta, io preferisco ancora.